Come si chiama? Giada. Che lavoro fa? La fiorista. Quanti anni ha? 29. Cosa fai di solito? Nel senso lavorativo? Sì. Allora, il lavoro è un po' vario, nel senso che cambia anche in base alle stagioni. Solitamente forniamo fiori, fiori in vaso, fiori recisi. Facciamo delle composizioni sia con i fiori finti, con i fiori veri. Quello un po' che la gente ci chiede. Perché ha scelto questo lavoro? Questo lavoro è nato un po' per caso, perché i miei studi sono totalmente diversi. Io ho studiato turismo, ho fatto l'università di lingue e culture per il turismo. Poi è arrivato il Covid, ha un pochino cambiato la mia vita, la decisione comunque di rimanere in paese, lavorare qui vicino alla mia famiglia. Ho sempre avuto la passione per i fiori e un giorno così parlando con Eliana mi dice: guarda, io sono un po' stufa, sono arrivata un pochino al limite perché la burocrazia nel lavoro è sempre tanta e sto cercando qualcuno che possa prendere il mio posto. E quindi ho provato, mi è piaciuto e dal 1 gennaio sono partita io. Ha fatto altri lavori in passato? Sì, io vengo da una famiglia che ha sempre lavorato nel turismo, ha sempre avuto un albergo a costa, quindi la mia formazione, sono cresciuta in quell'ambiente lì e fino all'anno scorso ho sempre lavorato nell'ambito del turismo. Ti sei mai pentita di una tua scelta? No. No, al momento no. Ti trovi bene a fare il tuo lavoro o vorresti cambiarlo? No, mi trovo bene. Ti trovi bene con tutti i tuoi colleghi? Sì, intanto c'è solo Eliana. Mi andiamo d'accordo, no, siamo... Ma posso fare una domanda io? Cioè, nel senso, voi vi occupate proprio di tutto, nel senso anche proprio di andare a prendere dai pomidori? La difficoltà proprio è questa, vivere in montagna, che non sei servita come chi vive in città e hai i camion che passano in continuazione. Qua devi organizzarti e scendere giù, prendere le cose, cercare di, quando vengono su, di fare un carico un po' importante, perché altrimenti le spese sono eccessive. È un bel impegno anche sotto questo aspetto, perché tante volte pausa pranzo bisogna andare a recuperare il materiale per avere cose fresche. Questo è un argomento interessante, perché era uscito anche con altri che dicevano il privilegio di vivere in montagna, ma anche, anche le problemi. Abbiamo gli amici che hanno la fioreria giù a Besenello, a loro passa il camion 3 volte al giorno, a noi una volta in settimana se lo chiamiamo con un buon carico, altrimenti dobbiamo scendere noi. Quindi è tempo e costi maggiori, che però cerchi di puntare di più sulla qualità per avere un servizio ottimale. Un altro elemento importante, è vero che abbiamo sentito la qualità, cioè lavorare bene, organizzarsi bene, accogliere il cliente bene, alla fine paga sempre. Ce l'ha detto molto marcato, quindi ricordate che ce l'ha detto questa cosa della qualità fondamentale. Il macellaio. Ha detto che lavorare con la qualità alla fine paga sempre. È molto faticoso, bisogna studiare. Da piccola, quale passatempi facevi? Ma io ero molto attiva, sono sempre stata attiva a dire la verità. E finché avevo le energie per farlo ero nella banda, andavo a pattinare, andavo a giocare a tennis, ero nel gruppo della pallavolo, cioè sono sempre stata molto attiva. Poi adesso ho un bimbo piccolo, quindi ho rallentato un pochino i ritmi e mi dedico al lavoro e alla famiglia prevalentemente in questo momento. C'era una passione in particolare che ti sarebbe piaciuto sviluppare quando avevi la loro età? Abbiamo parlato anche molto di passioni, di avere qualcosa che effettivamente si stanno accorgendo che sono bravi a fare quel lavoro lì. Ecco. Ma io ho sempre lavorato un sacco con le mani. Ho fatto corsi di Biedermeier, ho fatto corsi di composizione, di disegno. Mi è sempre molto piaciuto usare le mani e creare un qualcosa, sì, creare proprio qualcosa di mio, qualcosa che comunque l'immaginazione mi dettava, no? E un po' in questo lavoro la ritrovo, nel senso che comunque devi comporre, devi avere un po' di fantasia e devi avere manualità, perché se non hai manualità è un pochino difficile. Quindi la mia passione che avevo da piccola un pochino si rispecchia anche nel lavoro. Volevo chiedere un consiglio a questi ragazzi, a questi ragazzi, le cose in cui anche loro volessero intraprendere la stessa attività. Quale potrebbe essere un consiglio da dare per far bene questo lavoro? Abbiamo alcuni aspetti, li avete naturalmente detti voi, no? Però se vi viene in mente qualche altra cosa? Sicuramente la parte creativa alla carta vincente, quindi se io da piccola non buttavano via qualcosa, che mi inventavo sempre qualcosa, un sasso vedevi già una forma dalla terra, poi invece c'è la parte che piace più coltivare, quindi tutto ciò che è fiore, giardino, orto, la crescita, sono proprio due cose che probabilmente le hai già innate, devi solo stare un po' attento a quello che ti richiede il tuo momento di fare. Però è un lavoro comunque molto vario, quindi ti dà soddisfazione in più campi. Però sicuramente la creatività e la voglia di fare ci vuole su queste cose, non la sedentarietà, no? Questo no. Ah, sei scopata subito dopo 22 anni. Insomma, diciamo che gli ultimi anni erano molto impegnativi, anche perché per un ruolo, una mamma comunque, una donna mamma, l'impegno è sempre grande, perché l'attività in proprio ti occupa tanto spazio e la mamma anche, quindi è stato impegnativo, però è piacevole sapere, sono giovani che hanno voglia di fare, di mettersi in gioco, quando Giada mi ha dato l'ok ero felicissima, perché ho detto bello, una ragazza che ha voglia di fare, di provarci nel tuo paese, perché non è così scontato la voglia di fare nel tuo paese, perché è sempre comunque un po' stretto e con sacrifici, però è piacevole. Carta vincente. Appunto, ti interessava rimanere qua a lavorare? Sì. Cioè, io ho fatto una scelta con la mia famiglia, comunque mio marito lavora via da qua, quindi è tra Bergamo e Treviso, e quindi durante la settimana non c'è praticamente mai. Un giorno ci siamo interrogati, stare vicino comunque alle famiglie di origine, abbiamo casa qua, quindi avere tutti i nostri affetti qua, oppure mollare tutto e andare via per lavoro. Era una scelta un po' difficile, abbiamo fatto la scelta che si sposta lui durante la settimana e comunque una base forte, insomma, familiare la teniamo qua. Quindi scelta mia di trovare un lavoro, di trovare una sicurezza anche economica e rimanere qua. Qual è il tuo sogno da bambina? Il mio sogno? Il mio sogno era quello di poter avere un negozio, sì, è vero, e ce l'ho fatta. Mi sarebbe sempre piaciuto l'idea e il contatto con le persone in un negozio, ma non pensavo mai di fiori, sai, perché io di fiori non me ne intendevo niente, proprio no, però a me piaceva creare. Quando ho cominciato a lavorare con Flora e Sergio, che erano la loro attività, ho cominciato come lei, per caso. Sono entrata e mi hanno detto, non è che vieni a aiutarci che abbiamo bisogno? Ma sì, sì, io ci provo, però guarda che di fiori non so niente. E dopo ho imparato tutto, abbastanza, non tutto.